Ci stanno davanti i miracoli, amen. Siamo una chiesa che crede nei miracoli, abbiamo un Dio che è il Dio dei miracoli e noi vivremo miracoli, amen. Questa è una settimana importante, una settimana dove il mondo intero è in festeggiamento, dove festeggia qualcosa che non conosce, festeggia qualcosa che pensa di sapere, di conoscere, e noi invece conosciamo molto bene e siamo i primi ad aver ragione di festeggiare la venuta di Cristo Gesù su questa terra, e quindi lo vogliamo far sapere a tutti e vogliamo regalare a tutti un Natale come non l'hanno mai visto prima, un Natale che cambierà la storia della loro vita, perché il Natale ha cambiato la storia di questa umanità. Amen, è così? Filippesi. Solo che si è aperto ad Efesini, quindi andiamo a Filippesi. Filippesi 4 dice: esorto Evodia ed esorto Sintiche. Non siete contenti che oggi non abbiamo più sorelle che si chiamano Evodia e Sintiche? Io sì, magari c'è qualcuno che si chiama Evodia, Sintiche, e lo sto offendendo, perdonami. A essere concordi nel Signore, sì, prego pure te, ve li ricordate questi versi? Li abbiamo letti un paio di settimane fa. Oggi andremo avanti e finiremo, perché non mi piace lasciare le cose inconcluse, finiremo l'intero paragrafo. E qui dice, sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne. Quanti di noi sanno che le donne hanno bisogno di aiuto? C'è qualche disappunto. Che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, cui nomi sono nel libro della vita. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Lo vogliamo leggere insieme? Rallegratevi sempre nel Signore, lo ripeto, rallegratevi. Amen. Questo è quello che Dio vuole per noi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. E guardate cosa aggiunge la parola di Dio. Questo è il nuovo che abbiamo per questa sera. È la pace di Dio, che supera ogni intelligenza. Custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete udite, che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. Rallegratevi, dice il Signore. Rallegratevi sempre. Abbiamo visto la scorsa volta che la gioia è una scelta, non è qualcosa che è valida solo per alcune persone, non è qualcosa che ci capita solo quando tutto fila liscio nella nostra vita, ma noi possiamo prenderci la responsabilità di vivere una vita nella gioia, in piena allegrezza, un'allegrezza che è continua, un'allegrezza che vale in ogni circostanza e in ogni situazione, perché è una responsabilità che Dio ci offre e che noi possiamo vivere attraverso alcune chiavi che la scorsa volta abbiamo visto. Abbiamo visto come la gioia noi la liberiamo nella nostra vita nel momento in cui non viviamo delle vite egocentriche, nel momento in cui noi prendiamo carico del vivere una vita dove facciamo conoscere la nostra mansuetudine a tutti gli uomini. Siamo incentrati non su quella che è la mia famiglia, quella che è la mia situazione, quello che è il mio bisogno, quello che è il mio desiderio, ma quando guardiamo al di là. E fatemi dire questo, io Io sento l'orgoglio, il privilegio di far parte di questa chiesa, perché siamo una chiesa che è generosa, una chiesa che guarda oltre queste quattro mura, una chiesa che non vuole creare uno spazio che è adatto solo a noi per cantarcela e suonarcela tra di noi, ma siamo una chiesa che è generosa, che vede i bisogni di questa città. Proprio la scorsa settimana Sara aveva appuntamento con l'assessore, credo fosse l'assessore alla cultura, e questo assessore ha domandato a Sara: ma voi fate tutto questo con le vostre forze? C'è qualcuno che vi paga? Da dove prendete le risorse per aiutare i poveri, per fare feste per gli indiani, per andare in piazza, per animare la strada? E Sara ha detto: no, facciamo tutto da un cuore, dal cuore di una chiesa che pulsa per la propria città, che ama questa città e vuole investire affinché altre persone conoscono quella gioia e quell'amore che dimora in mezzo a noi. Questa è la chiesa che noi siamo, ed è un privilegio enorme essere tutto questo, non è vero? Quindi girati alla persona che ti sta a fianco e digli: grazie, grazie che ci sei, grazie che fai la differenza. Abbiamo visto che un'altra chiave per vivere gioia, allegrezza nella nostra vita è quando noi ci fidiamo, e questa fiducia la esprimiamo nella preghiera, nella supplica, nell'intimità con Dio. Quando noi preghiamo, noi ci fidiamo di Lui e ci arrendiamo a Lui, e nel momento in cui noi ci arrendiamo a Lui, vinciamo contro ogni preoccupazione e contro l'ansia. E queste ansie, queste preoccupazioni schiacciate liberano in noi gioia. La terza chiave che abbiamo visto è il ringraziamento. Il ringraziamento, la gratitudine, lo svegliarci la mattina e fare quella lista. Sapete, dopo quel messaggio è venuta una sorella a me, ha detto: io è da un mese che ho sentito nel cuore di fare un esercizio, prendere il mio diario e ogni giorno aggiungere 5 buoni motivi per cui io sono grata a Dio. E quindi lei da un mese, ogni giorno, sta scrivendo 5 ragioni per le quali lei è grata a Dio. Dio, ogni giorno, ragioni diverse. E lei mi diceva: sai, la cosa interessante è che io pensavo che sarei potuta andare avanti per una settimana, ma non di più. Invece è un mese che vado avanti e trovo sempre nuove cose per cui ringraziare. Nel momento in cui tu metti gli occhiali del ringraziamento nella tua vita, vedrai cose che prima non hai visto. E nel momento in cui vedrai quelle cose e sarai grata a Dio per quelle cose, sarai grato a Dio per quelle cose, tu libererai gioia nella tua vita. E questo è quello che è il desiderio di Dio per ciascuno di noi, dalla prima fila all'ultima, e per tutta la città di Modugno e per l'intero mondo. Dio vuole che noi possiamo vivere una gioia, perché Lui ci ha creati per vivere in un contesto di delizia. L'Eden, il giardino, ha questo nome perché era un giardino di delizia, e noi siamo stati creati perché Dio voleva darci una continua gioia. Sappiamo la storia come è andata a finire, ma oggi noi possiamo riprenderci quello che il nemico ha voluto rubarci. Ed è responsabilità tua e mia riprenderci attraverso queste chiavi la gioia completa che Dio ha da darci. Oggi cosa vediamo? Un'altra chiave, un'altra parola chiave. Ed è bellissimo perché in soli 7 versi, i 7 versi che noi abbiamo letto questa sera, noi cogliamo quello che è il cuore di un padre pieno di amore. Posso ricordartelo questa sera? Il tuo padre ti ama alla follia, e lui vuole veramente il meglio per la tua vita. E quindi lui dà queste istruzioni non perché è un giudice che è seduto su un trono, che vuole dei sudditi che sono sotto la sua autorità, e per il gusto di avere autorità e opprimere il suo popolo dà dei comandamenti. Niente di più sbagliato. Sì, Dio è sul trono ed è sovrano e giudicherà, però il suo desiderio è che il suo popolo possa vivere e sperimentare ogni benedizione per la quale Cristo Gesù è morto. Tu hai la possibilità di vivere ogni benedizione, e la benedizione di cui ci parlano questi versi è un'altra, e ha come parola chiave la pace. Quando noi diciamo pace, ci sembra di parlare di una un qualcosa che dice tutto e non dice niente. La pace è un'utopia, la pace è un termine che usiamo largamente per tante cose, ma quello che la parola di Dio dice in questi versi, quando Dio dice che Lui vuole darci pace, quello che Lui sta dicendo è qualcosa di incredibilmente grande, è qualcosa che cambia la tua vita, cambia la mia vita per sempre. Dio ha mandato il suo Figlio affinché noi ottenessimo pace. Questo lo leggiamo in Isaia 53. Il peccato, la colpa è ricaduta su di lui affinché noi ottenessimo pace. Pace è il dono più prezioso che Dio ha da darci. E quando Dio parla di pace, nel Nuovo Testamento fa uso del termine greco che è airene, e invece il corrispondente nel Vecchio Testamento è shalom, che conosciamo molto di più, e questo termine esprime non solo tranquillità, ma esprime sicurezza, esprime contentezza, appagamento pieno, esprime completezza, prosperità, riposo, calma. Quando Dio parla di pace, sta parlando di pienezza di vita, di uno stato interiore dove tu hai una completezza e un appagamento totale. Tutti noi siamo alla ricerca di questa pace. Il mondo intero è alla ricerca di questa pace. Tutti desiderano questa tranquillità e questa pace. E Dio è qui che ci dice, io te la offro. Io desidero per te pace. In 7 soli versi lui dice, io desidero per te gioia. E in 7 solo versi dice, io desidero pace. Quale Dio pieno di amore noi abbiamo, che esprime in uno stralcio della sua parola tutto il suo cuore buono verso ciascuno di noi. Il nostro Dio è buono. Dio è buono. Sempre. Sempre? Stamattina l'abbiamo cambiato. Ho detto Dio è molto buono. Molto sempre era stata la risposta stamattina. Quindi Dio è molto buono? Molto sempre? Dio è molto buono. Dio è molto buono molto sempre. Lui è molto buono e Lui vuole il meglio per la tua vita. Io non lo so da quale percorso di vita vieni, forse sei qui per la prima volta e ci reputi dei pazzi, ma il nostro desiderio è che tu possa comprendere che ogni cosa che Dio ha da darti è qualcosa che è il meglio per la tua vita terrena e per il tuo destino eterno. Dio è buono e Lui vuole pace per te. Il verso 7, lo leggiamo insieme, dice... Se voi non vi preoccupate, fatemi parafrasare il verso 6, se voi non vi preoccupate, ma piuttosto le vostre richieste le fate conoscere al Padre, con le vostre parole in preghiera, con le vostre ripetizioni, tornando a Lui, anche con le stesse richieste, queste sono le suppliche, e poi accompagnate a tutto questo continui ringraziamenti, la promessa che Dio fa è che Lui custodirà, guardate che parole usa, la parola di Dio per esprimere quale cuore Dio ha per noi, Lui custodirà i nostri cuori e le nostre menti, i nostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Versetto 7 dice, è la pace di Dio che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. I vostri cuori e i vostri pensieri, i vostri cuori, i vostri sentimenti, le vostre emozioni, la vostra parte intima e i vostri pensieri, quello che passa per la tua testa, il tuo stress, la tua ansia, le tue preoccupazioni, Lui le custodirà. E vedete, il termine che l'Apostolo Paolo usa nel dire custodirà è un termine che sta a significare, è un termine militare. Letteralmente è militare come termine e sta a significare fare la guardia. Dio farà la guardia al nostro cuore, alla nostra mente, con la sua pace. Farà la guardia significa che lui prende una posizione violenta contro ogni cosa che vuole toglierci pace nel nostro cuore, nei nostri cuori, nei nostri pensieri. Ed è così importante che noi comprendiamo queste parole, lo spessore di queste parole e perché Dio parla di cuore, di pensieri. Perché Dio non parla e non dice, dopo che avete pregato, dopo che avete supplicato, dopo che avete accompagnato tutto questo ringraziamento, io esaudirò le vostre preghiere, le vostre circostanze cambieranno e quindi di conseguenza avrete pace. Dio non dice niente di tutto questo, perché sapete qual è la verità? È che Dio è molto più interessato a cambiare ciò che viviamo interiormente rispetto a ciò che ci accade esteriormente. Fatemelo ripetere, Dio è molto più interessato nella tua vita a cambiare ciò che tu vivi interiormente rispetto a ciò che tu vivi esteriormente. Anzi Dio, fatemelo dire in una maniera ancora più forte, Dio permetterà determinate circostanze e situazioni a te esteriori per modellare, migliorare, cambiare, far maturare ciò che tu vivi interiormente, per farti crescere in statura, in carattere, in personalità, facendo crescere il tuo cuore, facendo modellare la tua mente con i giusti pensieri. Dio è interessato a quello che tu vivi interiormente molto di più e prima di quello che tu vivi esteriormente. E se noi comprendiamo questa chiave, noi comprendiamo anche le parole di Giacomo che usa al capitolo 1 e dice: considerate motivo di grande gioia le prove svariate nelle quali vi ritrovate, perché queste producono in voi costanza, speranza. E le virtù che vengono, che anche Michele oggi ha citato leggendo 1 Pietro. Dio vuole che il nostro carattere cresca prima ancora che le nostre situazioni cambino. Tutti noi vogliamo la pace, però viviamo troppo spesso l'inganno di credere che questa pace l'avremo nel momento in cui le circostanze esteriori cambieranno. In altre parole, crediamo che solo una condizione migliore esteriore potrà garantirci una condizione migliore interiore. Quanto è vero questo? Solo una condizione migliore. Quando avrò un buon lavoro, allora avrò pace. Quando questa situazione cambierà, allora avrò pace. Quando quella persona cambierà o, se possibile, si toglierà di mezzo proprio, allora io avrò quella pace, quella tranquillità. Quando mia moglie cambierà. Naturalmente non dico mariti, perché noi mariti siamo già perfetti, mi metto anch'io in mezzo. Siamo perfetti, che vuoi cambiare di noi? Il Signore perdona tutti quei mariti che in questo momento in maniera orgogliosa si stanno impettendo. Noi tutti dobbiamo cambiare. Al tempo stesso, anche quando le circostanze non cambiano, Dio continua a modellare il nostro cuore e i nostri pensieri. Una vacanza. Ci vorrebbe una vacanza, ha detto qualcuno la scorsa settimana, eravamo in una riunione. Quella mi darà pace. Non so se voi conoscete persone che si possono permettere una vacanza ogni 2 mesi. Io ne conosco qualcuna. E io vi assicuro che queste persone, anche nel loro benessere, nel loro viaggiare, permettersi pause continue e svagarsi e allontanarsi dalle circostanze della quotidianità, non vivono quella pace. Perché neanche una vacanza può assicurarti una pace completa. Forse sì, temporaneamente ti farà bene, ma è come se avrai messo, spinto il pulsante pausa. E poi quando tornerai alla tua quotidianità, purtroppo il play andrà da sé. E la cantilena si ripresenterà. Noi facciamo questo anche come credenti. Ci sono donne che hanno vissuto un bellissimo ritiro questo weekend. Vero, ci sono? È stato un bellissimo ritiro, come lo è ogni ritiro, perché è un tempo nel quale noi ci appartiamo per stare alla presenza di Dio, e la Bibbia promette questo: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. E quindi quando noi in un ritiro spegniamo il cellulare, stacchiamo con la quotidianità e cerchiamo la presenza di Dio, è inevitabile che Lui viene con la sua presenza, cambia, trasforma e mette pace. Non so se avete incrociato qualche donna che è stata in ritiro, hanno un volto pieno di pace. Eppure però il tranello può esserci anche in questo, perché noi passiamo da un ritiro all'altro e saltiamo, tiriamo sul fiato, andiamo in apnea perché abbiamo bisogno del prossimo ritiro per poter avere di nuovo pace, tranquillità e gioia e presenza di Dio nella nostra vita. Ma Dio non vuole questo. E neanche per il weekend. Tu sei qui questa sera e sai che questa è un'occasione bella, piacevole, il pastore sta parlando, sta facendo belle battute, sta citando la parola di Dio, io mi sento pieno, ma Dio vuole incontrarti non tanto qui quanto domani mattina al lavoro. E vuole cambiare la tua quotidianità e fare in modo che lunedì sia bello tanto quanto la domenica, il martedì ancora più bello del lunedì, il mercoledì ancora più bello del lunedì e martedì. Se tu ti sarai dato occasione di modellare il tuo cuore e i tuoi pensieri secondo quella che è la sua volontà. Quando l'Apostolo Paolo dice io corro, io vado avanti, io cerco di afferrare ciò per cui sto afferrato. I territori di cui sta parlando sono territori spirituali e che hanno a che fare con la parte intima, interiore sua. Perché quando ha usato queste parole era in una condizione di prigionia, non poteva andare da nessuna parte, non c'erano condizioni che gli davano opportunità di conquistare nuovi territori, di afferrare nuove cose, ma io credo ed è mia convinzione che lui si riferisse a quelle parti del suo cuore, quelle parti della sua mente che ancora potevano afferrare quelle conquiste che Dio aveva per lui. Dio ha delle conquiste per te e per me e non hanno a che fare con tanto con territori e situazioni e circostanze e vittorie grandi e fuochi d'artificio, ma avranno a che fare con i tuoi pensieri, con il tuo cuore modellato, con il tuo carattere trasformato. Infatti, dov'è che parla di nuovo di pace? Nel verso 9, dove dice: "E il Dio della pace sarà con voi", a conclusione di tutto il paragrafo e a conclusione di quello che è il verso che precede, che è il verso 8. Il versetto 8 dice questo, lo vogliamo leggere insieme. "Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri." Lo vogliamo leggere in un'altra versione di Bibbia? Forse lo rende ancora più chiaro. È molto, molto in linea, non è una versione che distorce il messaggio. E qui dice: "Ed ora, fratelli, mentre concludo questa lettera, voglio dirvi ancora una cosa, indirizzate i vostri pensieri." E sapete, è proprio questo il termine che viene usato nel greco originale, indirizzare, fare conto di, questo è il termine greco che è lì nell'originale, indirizzate i vostri pensieri su tutto ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è, in cui vi è virtù e merita lode. La promessa della pace nella nostra vita è una conseguenza della scelta che noi facciamo dei nostri pensieri. Nel momento in cui tu pensi le cose giuste, tu vivi le cose giuste. Ed è così importante che noi comprendiamo che questo non è un bel verso ricco di belle parole, no? Che è una lista così messa a caso, è una missione, è una guerra, quella che l'Apostolo Paolo sta proponendo, quello che Dio sta proponendo a ciascuno di noi con questa lista di parole è proprio: prenditi responsabilità e mettiti in guerra e fai in modo che i tuoi pensieri, la tua mente sia indirizzata esattamente verso queste cose specifiche. Perché sappiate questo, la nostra mente è un campo di battaglia. È un campo di battaglia, il primo campo di battaglia nel quale il diavolo vuole operare, perché se opera nella nostra mente conquista tutto il resto. Voi conoscete quel verso, no? Che dice che non conformatevi a questo mondo, no? Romani 12, versetto 1, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati, come? Mediante il rinnovamento della vostra mente. Quindi capite che dalla mente parte una trasformazione completa per la nostra vita. C'è qualcuno che ha scritto: considera i tuoi pensieri perché diventeranno le tue parole, considera le tue parole perché diventeranno le tue azioni, considera le tue azioni perché diventeranno le tue abitudini, considera le tue abitudini perché diventeranno il tuo carattere, considera il tuo carattere perché diventerà il tuo destino. Capite come tutto può partire da un singolo pensiero, un pensiero che è distorto, un pensiero che non è in linea con la volontà di Dio, che si impianta nella nostra testa e porta un frutto di distruzione per l'intera nostra vita. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Nel Nuovo Testamento noi leggiamo un'altra parola che è ricorrente, che è ravvedetevi. E a volte noi pensiamo che quel ravvedimento ha a che fare con delle azioni, quando in realtà il termine originale sta a significare realmente cambia pensiero. Cambia il modo di pensare, perché se cambia il tuo modo di pensare, inevitabilmente le tue azioni cambieranno. Inevitabilmente il tuo comportamento sarà diverso. Questo è quello che Dio vuole per ciascuno di noi. Quindi, quali pensieri Dio vuole per noi? Beh, la lista è precisa e io non avrei tempo di andare a studiare con voi ogni singolo termine, anche se vorrei, ma ho cercato di raggruppare questa lista in tre specifici raggruppamenti e voglio vederli con voi. Ho fatto una tabella un po' seguendo quello che è il modello che anche Luis ci ha presentato la scorsa settimana e vedendo anche quelli che sono i pensieri opposti a questa lista che ci viene presentata. E quindi in questa tabella troviamo da una parte quei pensieri che Dio vuole che noi abbiamo e dall'altra quei pensieri che sono l'esatto opposto. Leggiamolo insieme. Dio dice ogni cosa che è vera, pensieri veri e non falsi, pensieri onorevoli e non disonorevoli, pensieri giusti e non ingiusti, pensieri puri e non impuri, pensieri amabili, non brutti, pensieri di buona fama, non di cattiva fama, pensieri in cui vi sono virtù e lode, non pensieri spregevoli e senza valore. Questo è quello che Dio vuole per noi. E io partirei dall'ultimo raggruppamento, i pensieri che Dio vuole, amabili di buona fama e in cui vi è virtù e lode. Amabili di buona fama e in cui vi è virtù e lode. Voglio renderlo molto pratico. Come puoi scegliere nella tua vita di avere questi tipi di pensieri? Beh, io credo che uno dei modi migliori per avere questi tipi di pensieri amabili, di buona fama, dove ci sono valori, questi sono i pensieri che alimentano valori dentro di noi, sono quei pensieri che noi possiamo coltivare nel momento in cui frequentiamo quegli uomini e quelle donne di fede che hanno scelto di vivere radicalmente per Cristo. Questa è semplicemente una cosa pratica che voglio darvi. Se tu ti accerchi di persone che vivono radicalmente per Cristo, inevitabilmente i tuoi discorsi saranno su di Lui e su quello che Lui è capace di fare, sulle testimonianze di vita che loro hanno vissute, che alimenteranno in te fede, che alimenteranno in te speranza, che alimenteranno in te i sogni di Dio. Questo è qualcosa che noi facciamo in mezzo a noi, quando noi scegliamo di uscire una sera con delle persone piuttosto che con delle altre, oppure nella scelta che noi facciamo regolarmente di andare magari a una conferenza il prossimo anno. Abbiamo una bellissima occasione, a giugno verrà un predicatore, John Piper, a pochi chilometri da qui, a Pescara, e ci sarà una conferenza e avremo modo di confrontarci con un uomo di uno spessore, di una fede, di un percorso di vita incredibile. E poi ci sono altre conferenze come quella della Hillsong, dove molti di noi partecipano, ma noi dobbiamo essere intenzionali. Se non sei intenzionale, queste cose non le vivi e rimani a fare quello che più distrugge la tua vita, e cioè guardare quella dannata televisione e accedere a quel dannato internet. Fatemelo dire così, non perché voglio essere legalista, ma quando io penso a pensieri brutti, di cattiva fama, spregevoli, senza valori, inevitabilmente mi vengono in mente certe trasmissioni. Inevitabilmente mi viene in mente quello che mi viene catapultato addosso e nella mia mente quando accedo a Facebook e a internet in determinati contesti, in determinati profili da parte di alcune persone. E noi possiamo scegliere. Noi possiamo scegliere di alimentare la nostra mente di una o dell'altra cosa. Se rimaniamo superficiali e non scegliamo, inevitabilmente quello che sempre abbiamo vissuto continuerà ad alimentare la nostra mente, e la nostra mente alimentata di veleno produrrà in noi cose negative. Inevitabilmente non avrai pace, non avrai completezza, non avrai tranquillità interiore, non avrai serenità. Dio vuole tutto questo per te. Ieri eravamo al McDonald's. Ora, non è che voglio screditare il McDonald's, spero che non c'è nessuno che gestisce un McDonald's, però lì devi scegliere bene i cibi che prendi. E non puoi permetterti, fatemi dire così, di andare ogni giorno, pensate di andare a ogni pasto al McDonald's e di mangiare ogni giorno patatine e salse. Cosa credi che produrrà nel tuo corpo? La mente funziona alla stessa maniera. Se tu ci butti ogni tipo di spazzatura, inevitabilmente tu vivrai spazzatura. Scegli bene di cosa alimentarti, scegli bene di chi accerchiarti, scegli bene quale libro leggere, quale film vedere. Se leggi un buon libro, una buona biografia di un grande uomo di fede, di un grande uomo che ha fatto la storia, questo alimenterà in te ogni cosa nobile, ogni cosa amabile, ogni cosa in cui c'è virtù e c'è lode. L'altra lista, l'altro raggruppamento di pensieri, sono i pensieri onorevoli, giusti e puri, e sono quei pensieri fondamentalmente santi. Dio vuole che noi abbiamo dei pensieri santi, non dei pensieri peccaminosi, impuri. E questi sono quei pensieri che rispondono alla domanda: Gesù penserebbe in questa maniera? Quando tu ti fermi e chiedi a te stesso: a cosa sto pensando? È mai capitato che qualcuno ti ha chiesto: a cosa stai pensando? A casa noi pranziamo, no? E ci sono questi pranzi dove c'è un silenzio tombale. E questo perché mia madre non parla, perché di solito il silenzio è solo rotto da lei. E parte questa domanda da parte sua, dire: che state pensando? E io e papà, è come se ci svegliamo in quel momento, no? Ci guardiamo e entriamo in panico. Perché questa è una cosa inconcepibile per le donne, ma noi uomini siamo capaci realmente di non pensare a niente. Di avere un elettroencefalogramma piatto. Le donne hanno questo elettroencefalogramma che va sempre e pensa, no? Qua scatta addirittura l'applauso. Invece noi uomini abbiamo quella capacità, che è un dono divino dall'alto, di poter non pensare a nulla, di avere un elettroencefalogramma piatto. Però letteralmente, quando noi leggiamo questo verso della Bibbia, il versetto 8, la domanda che Dio ci sta facendo è: a cosa stai pensando? Quando ho letto questo verso mi è venuto proprio il tono di voce di mia madre. È partita l'ansia. Signore, pure tu. E ho dovuto fare un'analisi dei miei pensieri. E ti giro questa domanda: a cosa stai pensando? Non solo ora, spero che ci sei connesso, mi stai ascoltando. Ma domani a cosa penserai? Nel posto di lavoro? Quando qualcuno ti taglierà la strada o ti farà un torto di qualsiasi tipo, cosa penserai? Saranno pensieri che Gesù avrebbe? O sono pensieri che partono dalla tua carnalità? uno dei rischi per noi credenti è quello di vivere quella vita religiosa che gli scribi e i farisei vivevano e che ha portato Gesù a dire ad un certo punto: voi siete dei sepolcri imbiancati. E Gesù l'ha detto perché queste erano persone che esteriormente erano impeccabili. Facevano agli occhi della gente tutto ciò che era giusto, tutto ciò che era all'apparenza puro, tutto ciò che era secondo la legge, preciso. Ma nei loro cuori, e Gesù legge i nostri cuori, e nei loro pensieri c'era morte. E tu puoi imbrogliare, puoi illudere te stesso e gli altri attorno a te di essere a posto, di fare le azioni giuste. Io qui, questa sera, posso essere qui su questo palco e mostrare il meglio di me. Ma solo io e Dio sappiamo cosa c'è in questa testa. E spesso in questa testa ci sono cose che fanno vergogna. Se potessero apparire magicamente scritte lì su quello schermo, tu dovresti scappar via. Tu dovresti scappar via. Perché abbiamo pensieri impuri, abbiamo pensieri sporchi. Però c'è una risposta. E questo verso non ci dice, non ci invita a togliere i pensieri impuri. Togliete i pensieri impuri, togliete i pensieri spregevoli, disonorevoli. Quello che ci invita a fare è metti i pensieri, sii intenzionale nel mettere i pensieri giusti. Non è bello questo? Perché nel rimpiazzare, nell'essere intenzionale, nel focalizzare la tua mente, lì conquisterai quello che è più terreno e più territorio ad ogni pensiero impuro, ad ogni pensiero carnale, ad ogni pensiero che ti parte automaticamente da dentro. È una tua scelta, è una mia scelta. Come per la gioia, tu puoi scegliere di avere dei pensieri diversi. Devi essere intenzionale. La scorsa settimana eravamo a Matera e c'era Elijah, c'era Gianluca, c'era tutta la famiglia loro. E a un certo punto Elijah a mezzogiorno incomincia a dire a papà: papà, ho fame. Papà, ho fame. Papà, ho fame. Papà, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame. Aveva ragione, poverino, cominciava a venire pure a me la fame. Però Gianluca ha fatto qualcosa di incredibile. L'ha guardato e ha detto: no, tu non hai fame, ti stai fissando. Poverino. Eppure qui. Elijah, ti capiamo, ti vogliamo tutti bene. Stasera ognuno di noi ti offrirà qualcosa al bar. Però spesso è così. Spesso è così. Noi ci fissiamo, ci puntiamo. E Dio semplicemente dice: guarda altrove, pensa ad altro. Togli quel chiodo fisso, comincia a riflettere su quelle altre cose, quelle cose pure, quelle cose buone, quelle cose che alimentano la tua mente e porteranno trasformazione nella tua vita. Indirizza i tuoi pensieri. Vedete, al primo posto della lista ci sono i pensieri veri. E la prima cosa che in questa lista viene citata, il verso parte proprio così, e dice: quindi fratelli, tutte le cose vere. Ed è importante che noi comprendiamo che l'ordine di queste parole non è a casaccio. Dio vuole che noi viviamo nella verità. Questo è un raggruppamento di pensieri a sé, tutto completamente a sé, ma è il fondamento. Tu in questo momento stai ascoltando parole che sono verità e queste parole di verità producono in te pensieri veri, allineati con la parola di Dio. E questo inevitabilmente rimpiazza ogni pensiero di bugia, falso. E noi dobbiamo comprendere che Gesù in Giovanni capitolo 8 versetto 44 dice che il padre della menzogna è il diavolo e lui verrà a noi con la menzogna, e la menzogna, i pensieri di menzogna sono i pensieri più distruttivi che noi possiamo avere nella nostra mente. Il diavolo si è presentato ad Adamo ed Eva proprio all'inizio in Genesi, la conosciamo a tutti la storia, con dei pensieri, con delle proposte, con delle parole di menzogna. Come? Dio ha detto che non potete? No, non è così, non è come dice lui. Ma quando lo farete, e ha proposto un'alternativa, ha proposto una distorsione, ha presentato Dio in una maniera diversa, e questo è quello che la bugia fa nella nostra vita. Quando il diavolo parla alle nostre menti con parole di bugia, cerca di distorcere la nostra immagine di Dio. E sapete, se c'è un tipo di pensiero contro il quale io devo lottare, sono i pensieri di bugia. Il pensiero che spesso nella mia vita è stata una minaccia, è stato che Dio non è interessato a tutti gli aspetti della mia vita. Una piccola bugia che si è insediata nel mio cuore e mi ha portato a credere a quel detto che a volte utilizziamo, e aiutati che Dio ti aiuta. Perché Dio tocca, Dio agisce, Dio interviene, ma solo in alcune parti della tua vita. In altre te la devi vedere tu, in altre lui non è interessato, in altre sembra essere assente. Questa è una bugia. E quando il diavolo impianta questo tipo di pensieri, di bugie, lui distrugge il nostro destino di vita. Dio cercherà sempre di modellare, di modificare, di distorcere l'idea che hai tu di Dio. Per questo è così importante che noi veniamo qui domenica dopo domenica e partecipiamo ai corsi e leggiamo la parola e ci cibiamo della verità, perché è sempre sotto minaccia. Proprio stamattina parlavo con un fratello che diceva: io arrivo a dubitare anche dell'esistenza di Dio, ma sapete, è qualcosa di normale e vale per tutti noi. Quante volte ti è capitato di dubitare realmente, anche da credente, dell'esistenza di Dio? Non c'è niente di particolare, non è niente di così grave, è il diavolo. È il maligno, è il padre di ogni bugia che viene per distorcere la tua visione di Dio e per rubarti ogni benedizione che c'è nella tua fede, nel credere in un Dio che è vivo, che agisce oggi, che opera, che ascolta, che interviene, che ha interesse nella tua vita, in ogni area. Un'altra cosa che il diavolo farà con la sua bugia è distorcere l'immagine che tu hai di te stesso. Sapete, il sentimento di rigetto che noi viviamo è una bugia che il maligno ha impiantato dentro di noi. Attraverso forse qualcuno nella nostra infanzia, attraverso qualcuno nel nostro percorso di vita, che ci ha portato a credere che noi non valiamo abbastanza, che noi non sapremo mai fare bene le cose, che tutti ci guardano ma con occhi di giudizio, che noi in realtà non possiamo essere amati e valorizzati e dipendiamo così tanto dal parere degli altri, perché questo rigetto dimora in noi, perché c'è una bugia che è impiantata nei nostri cuori. Invece la parola di Dio dice che tu vali, che tu sei preziosa, che tu sei prezioso, che Dio ha pagato ogni prezzo per te perché vede valore in te. E ogni cosa che tu vivi, ogni cosa che tu fai è impreziosita dalla sua presenza nella tua. Non hai bisogno dell'approvazione degli altri. Non hai bisogno di quello che gli altri dicono, criticano o ti elogiano. Non puoi vivere in quest'altalena. Sostituisci quel pensiero con il pensiero di verità. L'ultima cosa che voglio dire su questo aspetto della bugia, della falsità, è che la supposizione non è verità. Quando tu supponi qualcosa, qualche mese fa una sorella è venuta a me e si trattava di perdonare qualcuno. E diceva: io non sento pace da parte di Dio. Sapete, a volte non possiamo fidarci dei nostri sentimenti. Quella pace che noi ricerchiamo, no? A volte noi cerchiamo conferma da parte di Dio perché lui nel suo darci pace, no? Allora se sentiamo pace, allora è volontà di Dio. Se ci sentiamo turbati, allora non è volontà di Dio. Ma sapete che la maggior parte delle cose che Dio ci chiede di fare creano turbamento in me? Io non lo so com'è che voi cercate la pace di Dio. Quando Dio mi dice perdona, porgi l'altra guancia, non è che io sento pace da parte di Dio. lo Spirito Santo che sta confermando questa cosa. Non c'è turbamento dentro di me, tutto si scuote perché tutto dentro di me non vuole fare quella cosa. Quando presupponi, quando giudichi e hai pregiudizio nei confronti degli altri, qualcuno ti viene a dire qualcosa su un fratello, qualcosa su una sorella, tu cominci a vedere quel fratello, quella sorella con occhi diversi, perché dai per vero qualcosa che non è necessariamente vero. E quando quella immagine è infangata, le tue relazioni sono infangate, perché non sono basate sulla verità, ma sono basate su pregiudizio e presupposizioni. Non accettare questo, vivi nella verità, tutti i pensieri veri. Hai bisogno di pensieri veri, hai bisogno di capire chi è quella persona veramente, vai da quella persona. Perché devi accettare quello che ti viene detto dagli altri? Perché devi accettare un pregiudizio che nasce dallo sguardo che ha avuto, da come cammina o da come è vestito? Vai da quella persona, conoscila. E nel momento in cui la conoscerai, allora potrai cibarti della verità e magari scoprirai un fratello, una sorella meravigliosa che ama Dio solo che a modi strani. E chi non ce li ha in mezzo a noi? Quanto strani siamo, guardiamoci attorno. Qualcuno punta a Mario. Mario, puoi alzarti in piedi per piacere? Cioè, se abbiamo questo fratello in mezzo a noi, no? Che uno lo guarda e dice, ma scherzo, sei un dono prezioso di Dio, hai valore per la mia vita e ti ringrazio che ci sei, sei stato un supporto per me in questi giorni. E sapete, il pregiudizio mina le nostre relazioni, non lo permettere, vivi pensieri che sono veri. E poi l'Apostolo Paolo conclude, qui voglio veramente concludere, sono andato fuori già di molto, dice: le cose che avete imparate, ricevute, udite da me, viste in me, fatele. Perdonatemi, ma devo finirlo questo paragrafo, se no andremo avanti per altri tre messaggi. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me, viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Le cose che avete imparato, le cose che avete ricevute, le cose che avete udite e le cose che avete viste in me, fatele. L'Apostolo Paolo non si è posto come un insegnante di cose teoriche. Non ha detto fate questi pensieri, io non ce la faccio ma li metto su di voi, fatelo voi, io non ce la faccio a pensare pensieri puri. No, lui evidentemente viveva tutto questo. E questo è un incoraggiamento per noi, perché se il peggiore dei peccatori, quale lui stesso si definisce, dice di se stesso che è un esempio, un modello che tutti noi possiamo seguire, allora c'è speranza per te e per me. C'è speranza nell'ascoltare queste parole questa sera e metterle in pratica domani mattina al lavoro. C'è speranza nell'ascoltare queste parole e cambiare i nostri pensieri in qualunque circostanza ci troviamo e con qualunque persona abbiamo a che fare. Vogliamo alzarci in piedi? Io voglio pregare perché so che lo Spirito Santo sta parlando al tuo cuore e lui vuole liberarti questa sera. Tu non sei venuto qui per ascoltare solo un buon messaggio, tu sei qui per ricevere la piena benedizione che c'è nella parola di Dio, che è una parola efficace, che è una parola potente e che ha autorità di trasformare le nostre vite. Non domani necessariamente, non fra un mese, ma all'istante, in questo momento. Qual è la bugia che dimora in te? Quali sono i pensieri di cui ti vuoi liberare, vuoi rimpiazzare con i pensieri giusti? Qual è il carattere che vuoi trasformare? Qual è il cuore e la mente che vuoi che siano custoditi nella pace di Dio? Beh, tutto questo lo puoi ottenere, perché sono le promesse di un buon padre. Lui vuole piena gioia per la tua vita e lui vuole una vita nella ricca benedizione di una pace, di una completezza. Vogliamo chiudere i nostri occhi. E se tu questa sera dici, io voglio ricevere queste cose, io voglio farle mie queste cose, io voglio prenderle con violenza, io voglio fare della mia mente un campo di battaglia nel quale vinco nel nome di Cristo Gesù, allora in questo momento ti chiedo di alzare le tue mani e voglio pregare per ognuna di queste persone. Grazie Gesù perché ci vedi e ci ami. Grazie perché le nostre mani sono alzate a te, perché solo tu sei la fonte di cambiamento, solo tu sei la fonte di trasformazione. Noi abbiamo bisogno che i nostri cuori e le nostre menti siano trasformate mediante il rinnovamento della nostra mente. I nostri pensieri hanno bisogno di essere custoditi nella pace che solo tu puoi garantire, non le circostanze attorno a noi. Io voglio pregarti per ogni persona che è qui con le mani alzate a resa, E che riconosce che vive una vita e circostanze difficili. Padre, io ti prego che nel mezzo della tempesta tu possa operare nei loro cuori e nel mezzo della tempesta tu possa dare pace in questo momento a loro, a ciascuno di loro, che loro possano uscire da questa chiesa stasera, da questo locale questa sera, con la piena certezza che tu sei tutto ciò di cui loro hanno bisogno per affrontare ogni tipo di circostanza, ogni tipo di situazione, ogni tipo di gigante, perché tu sei l'Onnipotente, Gesù. Io voglio pregarti per quanti con le mani alzate in questo momento vogliono un lavaggio, che i pensieri impuri, disonorevoli, siano sostituiti da pensieri puri, pensieri che, in cui vi è virtù, ci sono valori. Io prego, Padre, che tu possa fare di ciascuno di noi delle persone con carattere, con personalità, con una mente sana, con un cuore pieno di te, del tuo Spirito Santo. E invoco te, Spirito Santo, scendi in mezzo a noi e riempici dei tuoi pensieri e dacci strategie pratiche, come abbiamo potuto coglierne alcune questa sera. Dacci strategie pratiche da poter mettere in azione a partire da domani e vivere quella pienezza di vita alla quale ci hai destinati. A te la gloria e l'onore, Padre. Sei meraviglioso, noi ti amiamo e ti onoriamo per la vita che ci permetti di vivere nella potenza tua. Alleluia, una chiesa piena di fede dice Amen. Amen. Amen. Vogliamo lodare il Signore insieme.